niente, una presa di ermetico, di dici... peraltro, no, no, per nulla ermetico, per nulla ermetico, dai, in realtà Flavio è la persona con più contatti nel mondo in assoluto, conosce anche il Papa, cioè forse fantastico. Il Papa me l'hai nominato anche tra tutte le persone che conosci, no? Può essere, può darsi, sì. Non l'attuale, il precedente un po' di più, soprattutto perché prima viveva a Roma, era più facile incontrarlo, conosce adesso è un po' tutti, più, Flavio, tutti. Più complesso. Ah. Fantastico, e dunque da questo momento sappi che sei un collaboratore di Cox Spaziale, perché noi abbiamo bisogno di gente con contatti. Molto bene, molto allora bene. Avete trovato la persona giusta. Fantastico. E poi abbiamo Paola Spagnuolo che ho corteggiato per un po' fino a che non sono riuscita ad averla in trasmissione. Direttamente dalla Puglia. Infatti. Solo per voi. Sei arrivata oggi? No, ieri. Ok. E... da dove? Grottaglie, in provincia di Taranto. Okay. La città delle ceramiche. Mm-hmm. So se... Certo. Boh, vabbè. Sì, certo, sì. Perché no? Certo. Beh, Bocche, la città delle ceramiche. Infatti. E come ti descriviamo? E come mi descrivete? Una povera cretina, no? Ma no. No, Paola Spagnuolo e diciamo ci descriviamo con il mestiere che faccio, non lo so. Vai, non lo so Sara, se il mestiere ci descrive, non lo iniziamo so. Iniziamo da lì, poi. Io sono un'attrice diplomata qui a Bologna alla Scuola di Teatro Galante Carrone. E sono anche una cantante più o meno. Cavoli, mi piace. Ci voleva la chitarra. Ci voleva, ma purtroppo la mia collega con cui ho un duo doveva andare a studiare per il conservatorio, quindi non è potuta esserci. E vi ho portato Flavio al posto. Capisci? Che non ha una chitarra, però. Beatbox al massimo. Ma che canterete a cappella, certo, giusto? Certo. Fantastico. Andiamo a cercarci un posto per cantare. Ok, va bene. Okay. Okay. Continuiamo. Okay. Dicevamo quindi cantante, attrice e poi. E poi niente, diciamo che. Ultimamente, ultimi mesi ho anche scritto uno spettacolo, sì, così. Ti abbiamo chiamato per questo. Ecco. Non so se c'entrava questa cosa, però certo. L'ho lanciata. Hai fatto bene. Com'è andata, fra l'altro? Molto bene. Cioè, allora, che poi questa cosa è una cosa da noi attori, nel senso che certo. Cioè, se dovessi dire quello che è, cioè io ti direi fatto cagare, fa schifo, terribile, terrificante, non voglio mai più salire sul palco. Essendo tu in radio non potresti fare altro che dire che è andata meravigliosamente bene. No, ma io sono onesta e ti dico che però la risposta del pubblico è stata molto bella. Ottimo. E lo posso dire molto onestamente, ma perché ho usato questa tecnica di non far venire nessuno della gente che mi conosceva. Certo. Perché sennò divento ultra diffidente su tutto quello che mi si dice poi nel post spettacolo, nel senso tu me lo dici perché mi vuoi bene, non perché sei sì, sincero. Sì, anche dovesse essere un parere sincero. Sì, no? Sì, sì, no, assolutamente, non vale per me. Okay. Quindi ho detto, faccio così, mi butto senza conoscere nessuno, vediamo okay. Come va. Dove è stata questa? A Lecce, okay. Un teatro di Lecce, e in una rassegna, tra l'altro, di nuove drammaturgie. Uh-huh. E la reazione è stata molto, molto calorosa e un po' ha segnato un po' l'obiettivo che cercavo. E quindi ho detto ok, allora posso continuare, sistemarlo, migliorarmi e insomma ingoiare questa roba del mettermi sul palco contro la mia volontà in qualche modo. Aspetta, una cosa che non ho capito è, allora tu qui reciti e l'hai anche scritto? Sì, sì, l'ho anche scritto. Io ho una domanda per Flavio, hai un Instagram che ti taggo? Sì, Instagram si chiama fluz.it. Fluz.it, ok, sì, adesso ti trovo subito. Fluz con due Z? Con una sola. Eccoti, perfetto. Grazie, scusate. Prego, non ho ancora postato la foto. Oggi sono un po' indietro. È non così, avremo ancora postato 150, la foto. 50 follower, esatto. Following e via dicendo. Quindi teatro a Lecce, solo lì quante volte? No, una volta sola perché era okay. Proprio un esordio, cioè nel senso non era. Il 15 gennaio è stato, ok. Ma è stata una roba. Diciamo una preview, molto... una sorta di. Sì, come sì. Com'è che si chiama? Ha un nome questa infatti, cosa. No? Diciamo noi l'abbiamo buttata lì come prova aperta per prova mettere aperta, le mani avanti. Tutto chiama? Quello che succede. Sì, ho imparato male. Che voi dite prova aperta. Poi il secondo livello è studio. Studio. Cioè, fondamentalmente quando non sei ancora sicuro che tutti giri bene, poi c'è un secondo studio. Poi studio c'è può andare avanti. La residenza. All'infinito. Esatto. Esatto. È graduale. No, perché noi abbiamo delle attrici che sono co-conduttrici, ma oggi sono rimaste a casa perché hanno fatto bene. Avevano paura di te, anche. Esatto. Ah, sì, paura di me, guarda. Infatti. Quindi ritornerà lo spettacolo. Abbiamo detto quindi prova aperta. Sì. Allora sì, una sorta di prova aperta, okay. Diciamo, perché fosse stato per me non ci sarei andata in scena. Nel senso, non così, non messa così. Ma il ragazzo, tra l'altro un ragazzo bravissimo, seguitelo, cioè uno degli attori più bravi che io conosca, si chiama Antonio Anzilotto De Nitto, è uno degli attori più bravi che io conosca. Vai, segna Cintia. Andatelo a vedere lo spettacolo io, suo, si chiama Radici, è stupendo, andatelo a vedere, meraviglioso. De Nitto, sì. Ok. E lui mi ha aiutato con la regia, mi ha inserito anche in questo contesto di rassegna, perché lui era il direttore artistico, e mi ha aiutato con la regia. Allorché lui mi ha detto: no, buttati, facciamolo. E quindi via. L'ho fatto. Hai fatto il festival, bene. Hai detto che si chiama? Si chiama Nuove Drammaturgie. Sì. Ma sai una cosa notavo? Che non abbiamo ancora detto neanche come si chiama lo spettacolo. È vero. Non so se vogliamo però creare del like. Un po' di tension. Ho una domanda: come si chiama lo spettacolo? Allora, lo spettacolo, il titolo ha un nome un po' ammiccante, devo dire. Non avrei dato forse questo titolo io personalmente, aveva tutto un altro titolo. Okay. Però dovete sapere che noi attori dobbiamo campare. E ve lo dico, cioè, vi faccio questo spoiler, nel senso... Ma dai! E Antonio, che ci vede a lungo, ha detto: no, questo spettacolo si deve chiamare Love Bombing. Ci vedi, piace. già lei... Sono saltata sul tavolo. E okay. Quindi ha chiamato parecchio pubblico, perché ha detto: cazzo, il love bombing, ma anch'io sono stata vittima di love bombing, e tutti a vedere questo spettacolo su love Scorrette. Bombing, che in realtà parla e non parla del love bombing, no. Insomma. In qualche... Sì, però diciamo non era... è un po' complesso come... Mi sto fomentando, mi interessa molto, ma quindi... Yeah. vi sto alzando perché vi state divertendo troppo lì di dietro. Non ripeteremo mai quello che abbiamo appena detto. No, prima. No. E quindi love bombing, interesting love bombing. Certo. Non ripeterò mai più quello che ho detto prima. Io guarda, in realtà l'avevo scritto proprio nel testo questa roba. Che qui. Cosa? Questo che abbiamo appena detto. Sì. Però mi ha detto Antonio, ma forse è meglio di potrei sonnicare qualcuno, anche perché non eri molto lontano. Cioè, quattro ore di macchina, sì, però insomma. Vabbè, qualcuno poteva esserci. Sì, no, infatti di cosa stiamo parlando? Scusate. No, così come dire che è faide geografiche, campanilismi, insomma. Mm-hmm, capisco. Allora, poi abbiamo qua Paola Spagnuolo, che abbiamo scoperto essere avere una doppia personalità, da attrice, anzi influencer su Instagram, perché io sì, lì influencer. Ti ho trovato, e poi anche cantante. Ma sì, e dunque fai un concerto venerdì 20? Sabato 20? No, venerdì 20. A Rovigo. A Rovigo, sì, allo Spazio T. Con la mia collega, nonché grande amica, Sara Chieppa, anche lei attrice in realtà, diplomata alla Galante Carrone, anche lei, ma in realtà c'è stata una conoscenza che non deriva dalla musica, ma in realtà noi facevamo parte dello stesso collettivo artistico su Bologna, che ve lo segnalo, anche questo è molto interessante, si chiama Nastri Teatro, sono un collettivo di attori che una volta al mese organizzano un varietà teatrale. Ah, vedi. Cosa succede? Non lo so. Ho erroneamente fatto partire la tua post. Ah, ok. Ok. No, infatti dicevo da dove arriva. Ero convinto di essere stato io, invece. Volevo prendere invece i tag, no. Non ce l'ho fatta. Ho capito. Se no, Bobby McFerrin che era partito, invece no. No, era J.J. Johansson quello, che è un gran pezzo. E dunque, ma chi scrive le canzoni? O fate no, cover? Noi facciamo al momento cover, okay. Perché un po' siamo un po' oberate di altre cose, quindi non riusciamo a metterci. Immagino. E un po' è nato così questo progetto, insomma, come progetto cover, però cercando delle canzoni che la gente non conosce, nel senso è una ricerca un po' di brani un po' antichi, non necessariamente la pizzica da Notte dell'Atalanta. Ma vogliamo dire tipo un paio di brani che avete in scaletta, oh, così vabbè, apriamo ma, il ma tanto pure che le dico, cioè, ci sarà qualcuno che capirà. Ok. Vabbè, allora tipo uno forse lo conoscete, abbiamo Te possino da tante coltellate, perché dovete sapere che questo proposito di nuovo. Esatto, questo spettacolo che poi portiamo avanti io e Sara, in realtà ci siamo resi conto che parla solo di canzoni d'amore, declinato in tutti i modi possibili praticamente. Mm-hmm. Siccome noi siamo sfigatissime con l'amore, abbiamo detto ma portiamola avanti questa cosa, diciamolo apertamente. E c'è anche questo momento del te possino da tante coltellate, perché chi non ha passato il momento te possino da tante coltellate, ci accomuna tutti e quindi... Okay. Cioè accomuna tutte. Dai, no. Anche voi uomini non ci credo che tu non c'hai un te possino da vabbè, un po' scomoda come cosa da io dire. Io non ce l'ho, no, infatti, di questi tempi, non mi verrebbe da dire te possino da tante coltellate. Un altro titolo un po' più politicamente corretto, allora, ma sempre piccante? Non lo so. Piccante piccato, qualcosa del genere. Facciamo due pezzi di Lucio Dalla. Ah, vedi, grande. Perché quali? Essendo nate qui a Bologna, sempre questo è di marketing. Facciamo Canzone, okay. E Piazza Grande, okay, wow. Però Piazza Grande nella versione di Tosca, quella metà spagnola. Wow. Cioè, l'ho presa. Cioè, no, la preparerò. Molto bella, ascoltatela. No, ma veniamo a Rovigo venerdì. Ah, magari, ragazzi, io sarei contentissima se vi vedessi a Rovigo. Sarebbe. Prepariamo una corrierina, un aeroplanino. Un'ora di treno alla fine. Ma sì, infatti. Yes. Ragazzi. Insomma, che dire? Andiamo, veniamo. Abbiamo detto lo Spazio T. Okay. Uno spazio culturale che ci ha contattato. Questo è un miracolo, veramente, perché noi non abbiamo una pagina, non abbiamo niente. Ah, ma com'è che loro hanno contattato voi? Sì, mi hanno scritto e detto: wow. Vieni a suonare Ma fantastico. Ok. Perché adesso io non ti seguivo, mm-hmm. ma sulla tua pagina metti qualcosa accanto. Ma ne avrò messo uno così. Secoli fa, non so, non lo so davvero. Sai? No, infatti, perché io ti seguo e non, no, forse non mi ricordavo che cantassi anche, però sì, ma infatti, mi mancava questa cosa. Beh, sono quelle cose destiniche che io ci credo molto. No, infatti, è bello, è bella l'energia questa cosa. Che l'energia si... che si apre, sì. Mm. Io devo far ascoltare dei sogni, per cui... Dei sogni? Sì. Vi metto in pausa un attimo. Prego, prego. Che poi fra l'altro comincia con me che parlo dalla settimana scorsa. Senti. Benjamin. Vladimir. Mi sveglio. Una voce metallica urla a me. E un'altra voce incalza. Perché agli artisti non è dato il potere di contrastare e controllare la follia del mondo? Perché agli artisti perché agli non artisti? È dato chiediamolo il potere. Ai nostri sì. curatori. Abbiamo scoperto di chi è questa voce. Cioè, io lo sapevo da subito, però siccome è la quarta volta che la stiamo trasmettendo, Mili Romano mi ha chiesto di mettere questa aggiunta. Mili Romano è un artista nonché ex docente dell'Accademia, nonché cara amica che ha fatto questo intervento sonoro e che appunto voleva farlo in maniera così un po' nascosta, e invece oggi ci racconta il suo intento. Eccolo e qua. ci invita, sentiamola. Buonasera caro Stefano, ringrazio te, Cox Spaziale, Radio Fujiko, per aver trasmesso in queste ultime due settimane Protected Area, l'audio nato in gennaio per le due giornate di apertura della nuova sede della Galleria Neon, come una mia reazione personale a quelle guerre e atrocità senza senso che da troppo tempo ci accerchiano, travolgendo le nostre vite, ma rischiando anche di farci diventare degli spettatori assuefatti e indifferenti e davanti alle quali siamo impotenti. Avevo chiesto che in radio quell'audio venisse trasmesso ripetutamente in forma anonima, senza alcuna autorialità, come una sorta di intermezzo fra le musiche e le chiacchiere della normale programmazione, e di questo ti ringrazio e vi ringrazio. Adesso, se sarete d'accordo e lo farete vostro, vorrei provare a trasformare quel piccolo grido in un'azione corale, un minuto, non di più, in cui un pensiero, una citazione, una musica, una proposta di azione dedicate solo a questo si allargassero come le onde di un sasso lanciato in uno stagno per fare fronte all'indifferenza e cecità. Chiunque dunque volesse far dono di un minuto contro la guerra potrebbe inviare un file audio al vostro indirizzo di Cox Spaziale. Tante voci per una voce unica. Forse un grido nel deserto? Chissà. Vale la pena provare. Grazie ancora. Ciao. Quindi mandate numerosi, mandate 333-180-94-94. Esatto, lo dovete mandare o al 333-180-94-94 durante Coxo Spaziale, che li suoniamo direttamente, oppure se lo fate quando non c'è Coxo Spaziale in diretta, scrivete sotto che è per Mili Romano, altrimenti lo potete fare anche per email che è semplicissimo Coxo Spaziale tutto attaccato @gmail.com. Ecco fatto, servito. Posso anche fare così, tipo. Ma facciamo così. Com'è sentire le nostre voci registrate mentre siamo qua? È un po' strano, in effetti. Sdoppiamento di personalità. Tra l'altro all'inizio pensavo stessi parlando tu. Infatti. No, non è adesso. È strano. In effetti io non mi ero accorto che c'era già la musica di sottofondo e avevo due musiche di sottofondo dietro. Ma vabbè, tutti piccoli tecnicismi da... Non se ne è accorto nessuno fino a che non l'abbiamo fatto notare. No, perché poi naturalmente cosa è successo? Che sono cominciati ad arrivare dei messaggi e dunque ascoltiamo quello di Etta Polico. Le masse non si ribellano mai, Maria Spontanea. Non si ribellano perché sono oppresse. In realtà, fino a quando non si consente loro di poter fare confronti, non acquisiscono neanche coscienza di essere oppresse. 1984, Orwell, è un libro del 1949. E un altro intervento, Lucia Zanardi da Berlino. Nel buio, sono vecchi e bianchi come morti, odiano la madre e vogliono i miei figli, vogliono cancellare i loro colori, la loro vita, non riesco più né a dormire né a svegliarmi. Ok, sono finiti i contributi per questa settimana. La cosa incredibile è che noi abbiamo fatto questa trasmissione lunedì scorso, abbiamo fatto questa call e il giorno dopo è uscita una call praticamente uguale di Radio Città Fujiko che si intitola La guerra è noi, uno spazio per condividere come ci fa stare il presente. Ed è una call pubblica di Radio Città Fujiko e noi. Sì. Poi siamo un po' sdoppiati, cioè nel senso che una della radio e una del programma. Esatto. Vabbè. Però è praticamente uguale. 333 180 94 94 vi mettiamo sul blog naturalmente il link per la call di Radio Città Fujiko. Certo. E dunque comunque quelli che raccogliamo noi con Mili Romano poi il 4 aprile verranno trasmessi anche. Bene. E continueranno, ne abbiamo altri in cantiere. Noi ne abbiamo già un botto. Ah, okay, okay, sì, okay. Però non è che possiamo rubare tutto questo spazio a Paola e ai nostri futuri ospiti. Anche perché fra un po' dobbiamo rubare altro spazio perché è ora delle pubblicità. Sì. E dunque. Che fai? Iniziamo un discorso, ci interromperai. No, infatti, ti no, per no, ma infatti facciamo direttamente così, guarda. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma. Compie anche questo. Okay. Marco Roma non ha più spedito niente dalla settimana scorsa. Sì, ci dobbiamo preoccupare, Marco. Marco, per favore, dacci un colpo. Infatti, noi abbiamo questo ascoltatore che ci fa dei jingle così. Ne faceva uno, quasi uno al giorno, ma ultimamente. I messaggi vocali si sono diradati. Sarà per felice, cui, quindi sarà facendo altro. Esatto. La tristezza che lo portava a dedicarci. No, ma non c'è niente da fare, magari. No, adesso no, io avevo questo dubbio che lui fosse un poliziotto della Digos che doveva ascoltare 24 ore a Radio Città Fujiko per vedere che non facessimo niente di illegale. E visto che si annoiava, ogni tanto mandava qualche. Qualche messaggio cantato. Niente, gli hanno dato un'altra radio da ascoltare. Sì. Può essere che abbia o un'altra radio da ascoltare, oppure magari che faccia qualcosa un po' più divertente, magari più utile anche per la società. Sei un poliziotto, perché poi alla fine può essere che non è un poliziotto. Nella nostra narrazione lui è un poliziotto che vabbè, tutto questo, insomma. Potrebbe essere qualunque cosa. A proposito di narrazione, ecco. fuori onda stavate parlando tantissimo, infatti. Chiacchierelle. Perché io sono uscita un attimo dalla goliardia per chiedere, appunto, per partire dal concetto del love bombing e farmi raccontare perché e per come è nata questa cosa. Diciamo quanto fosse o quanto sia ispirata alla realtà e lei è andata un po' avanti. Sì, ok, allora, sì, questa storia è praticamente al 90% ispirata alla realtà, e in realtà è una realtà abbastanza vicina, nel senso che non è successo troppo tempo fa, ma appena a settembre, questa storia qui. Mm-hmm. Finita o iniziata? Finita e iniziata, è durata solo 10 giorni. Okay. Oh, pensate, wow, quanto può essere stata veramente, okay, diciamo, è stata una storia che mi ha cambiato veramente la vita. Ti posso credere. E insomma, ho incontrato questa persona, che una persona molto molto bella, mm-hmm, cioè, sia esteticamente che come persona, interessante, cioè, carismatico. Sì, ma proprio le cose che diceva erano molto cioè, rare da trovare. Okay. Cioè, come parlava dell'amore, era molto molto spirituale, molto, cioè, qualcuno che finalmente non avesse paura dell'amore. Cioè, okay, che per me in questo momento la società è veramente una cosa rarissima da trovare. Mm-hmm. E quindi c'è stato questo riconoscimento fra me e lui. Ho una domanda vagamente personale: perché tu cerchi qualcuno che come te creda nell'amore? Perché tu non ci credi e ti sorprende? Cioè, la posizione tua rispetto all'amore? No, io credo tantissimo nell'amore, okay, questo spettacolo nella, okay, controprova. Quindi lui ti confermava, cioè ti dava quell'idea del finalmente uno che non fugge, sì, davanti a quello che per me è. Esatto, okay. Ma è molto molto attento anche di me, insomma. Mm-hmm. E avevo un passato un po' duro, un po' triste, un passato d'infanzia proprio triste e impegnativo, e ci teneva finché io un po' rientrassi in questa sua vita, farmi conoscere un po' tutti i suoi aspetti vari, quindi ha voluto che io andassi a trovarlo in questo paese che non è il mio, fuori dal mio paese, sono andata a trovarlo, dopodiché siamo andati nel suo paese originale, che non è nella mia regione, la Puglia, ma è fuori regione. Ah, okay. E lì siamo andati appunto nella sua, a stare in quei giorni nella sua casa d'infanzia. Come ospite? Cioè, non vi stavate trasferendo? No, non c'erano, okay, neanche i genitori, eravamo, okay, solo io e lui. Ok. E poi a un certo punto la giardiniera, vabbè, questo è un altro discorso, okay, che è molto a ricco. Volte è bellissimo non essere da soli, non so se qual è l'occasione, ti faccio continuare. Okay? E quindi in questo contesto lui ha proprio attivato questa ferita, ecco, ha iniziato a sbarellare, però ecco, non sbarellare è un termine brutto, nel senso è iniziato proprio a delirare, a trovare tanti modi per allontanarmi, mm-hmm, perché era proprio un boicottamento totale a 360 mm-hmm gradi, ma in maniera, cioè, con delle scuse assurde, ma non erano neanche scuse, lui ci credeva fino in fondo a quello che diceva, tipo la cosa più assurda che mi è stata detto, mm-hmm, e che poi ho riportato nello spettacolo perché è anche abbastanza artistica come roba, mi ha detto tu non hai cura, perché ieri quando hai cucinato le zucchine tu l'aglio che hai soffritto poi l'hai buttato e quell'aglio l'ho coltivato io, tu non hai cura. Io, ok, questa era questa persona che fino a un attimo prima mi amava, diceva, e un attimo dopo dice che io non c'ho cura perché gli ho buttato l'aglio, e quindi dicevo, ma aspetta, ma beh, sì, succedendo? diventa non curanza qualsiasi cosa che può essere interpretata e reinterpretata. No, ma diceva robe tipo non possiamo stare insieme perché tu cammini lentamente. Dicevo, ma come cammino lentamente? Ma che vuol dire? Sì, a te non piace il mare, non possiamo stare insieme. Però poi c'aveva questi attimi dopo in cui ritornava in sé, mm-hmm, oppure mi diceva cose bellissime. Certo. E io dicevo, ok, allora no, ho capito male io. Ok, allora no, sono io che ho interpretato, certo, male, cioè sono io il problema, non lui, sono io. Certo. E quindi questa realtà un po' distorta, sia da parte sua, nella sua mente era completamente distorta, ma che rimbalzava su di me, e quindi anche il mio cervello, è incredibile il cervello. Mm. Voglio chiederti una cosa. Come hai fatto a uscire fuori dal sto ricordando male? È molto semplice, perché poi il giorno dopo, per l'ennesima volta sbarellato, io ho deciso di andarmene. Scusa la risposta. Ho detto, no, ok, cioè, se tu non mi vuoi, io vado via, cioè, se tu non mi vuoi, io vado, sì, via, no? Ok, certo. Anche perché 3 anni di terapia dovranno pur servire a qualcosa, signori, cioè, se non mi salvo in questa occasione. Senti, ma brava, ti devo fare una domanda, hai fatto il gesto REC per dire a te stessa? No, perché voglio riascoltarmi poi le cose che dico. No, REC quando diceva certe cose ti diceva era tutto molto, il cervello, appunto, dicevo, è molto, molto, non so, è un meccanismo di difesa che però in realtà si gioca contro di te, perché sì, tutto quello che io ascoltavo e sentivo cercavo di giustificarlo. Ok, ha fumato, ok, ha bevuto, ok, però io ho detto questo, ok. Però la cosa diventava sempre più grande, fino a che, e questa è stata la cosa proprio ancora, in realtà non l'avevo capito, mi ha portato a conoscere i suoi amici. E i suoi amici, uno alla volta, mi pigliava e diceva: senti pa, te lo dico, scappa. Ah, ma come dico? Scappa? Si scappa, scappa. Beh. No, lui c'ha un cuore grande, però tu scappa. Ma come scappa? Diceva, che cazzo state a dire? Sì, no. Guarda, ti accompagno in stazione, ma tu scappa. No, ma io dicevo, ma che cazzo state dicendo? Lui, vedendo tutta questa... che si stavano tipo coalizzando, cioè vi stavate coalizzando. No, io non stavo facendo niente, venivano da ovviamente me. Sei sempre responsabile di qualcosa, certo. Tu. Ok? Questo ti è venuto e mi ha detto: dai, andiamo in stazione, ti accompagno. Io, ecco, ha capito che mi ama. Adesso in macchina mi dirà che mi ama, che vuole stare con me, che si è sbagliato, vuole che io rimanga. No, ragazzi, assolutamente no. In macchina lui mi ha fatto un agguato, tipo? Mi ha aggredito, ma in un modo proprio completamente fuori di testa. Ha iniziato a dire cose tipo: hai messo zizzania fra i miei amici, tu non hai idea di quello che ti faccio. A un certo punto stavamo in mezzo al nulla. Minchia. Del nulla di una città ti prego enorme. A raccontare. Sì, veramente. Eravamo al buio e lui si è fermato con la macchina perché io piangevo e lui non voleva che io piangessi, gli dava fastidio. Ha detto: scendi, faceva: scendi, cazzo, scendi. No, cioè, che cazzo, dove scendo? Che stai dicendo? Poi ritornava in sé, però diceva: io ti devo chiedere scusa perché io non posso avere una relazione, scusami, io non posso avere una relazione. E quindi gli ho capito che avevo a che fare con, certo, con un qualcosa di più grande di me. Certo. E nel momento in cui poi ci siamo fermati, lui voleva salutarmi con una manata, tipo: ciao, sì. Compare. Sì, sì. E io no, ho provato un modo veramente di grande amore nei suoi confronti. Gli ho detto no, ho detto: abbracciamoci. E lui di nuovo ha switchato, ha fatto: sì, abbracciamoci, sì, un abbraccio, certo. E ci siamo abbracciati. Mm. E quindi poi vabbè, ha fatto altre cose molto strane, tipo a un certo punto sotto le scarpe ha iniziato a cambiare scalzo. Ma questo, tutto questo in mezzo al nulla, al buio? No, eravamo, lo possiamo dire, in una stazione famosa. In una stazione. Vabbè, ok. Okay. La stazione, cioè, quantomeno c'era un modo per andartene via. No, no, io in quel momento ero al sicuro, posto, però comunque sì, io ero molto provata perché per me è stata come una violenza fisica. Cioè, certamente. Quando io sono arrivata lì poi alla stazione dei Pullman, chi era lì mi ha detto: chiamiamo la polizia, perché io ero veramente completamente devastata. Poi però ti dicono: vabbè, ma non hai le vite addosso? No, in realtà no, non hanno detto chiamiamo la polizia. Ho detto no, che cosa devi chiamare? Cioè non c'è perché? Da chiamare. Perché? Ah, innanzitutto, come ho letto in un libro che parla un po' di queste dinamiche, dice che le violenze, le più grandi violenze che si subiscono in una relazione non sono legalmente perseguibili. Avvengono tutte nelle mura domestiche e sono tutte abbastanza o psicologiche o verbali. Certo. Ok. Quindi anche se io avessi chiamato la polizia, che faccio? Lui mi ha chiamato stronza, mi ha detto, mi ha aggredito a voce, non avrei potuto fare niente. Ma a prescindere deve esserci proprio una comunicazione di quello che succede, cioè un dare voce alla cioè un dare testimonianza al fatto che esistono queste cose. Perché queste robe qua, più le teniamo nascoste e più non esistono per nessuno. Ma io ci ho fatto uno spettacolo. E infatti poi e infatti poi grandissima. Okay. Cioè, nel senso, perché a parte perché dovevo un attimo superare questo trauma, perché io nei giorni successivi non piangevo, ma soprattutto non ricordavo il suo volto. No, ok. All'epoca avevo rimosso il suo volto. Come dormivi? Bene. Infatti poi c'è stato questo momento in cui io poi ho scritto tutto e lì ho proprio svuotato tutto il pozzo che avevo ricolmo di dolore, che è stata proprio la valvola di sfogo. Ma poi mi è servito anche per dare un po', per onorare questo amore che non si è potuto vivere e non si è potuto vivere per una cosa più grande di noi, che è la malattia mentale. Certo. Perché qua parliamo di malattia mentale, non parliamo di una persona che con cattiveria si è messo lì a cercare di distruggermi. Era chiaramente una persona che stava vivendo qualcosa di distorto ed è per quello che io comunque ho sentito di doverlo abbracciare. Salvandomi, cioè non è che sono rimasta lì. No, certo. Sono andata via. Io non dico che in queste situazioni uno debba restarci. No. Assolutamente, questa è la cosa più importante, ci tengo a sottolinearlo. Non è che bisogna salvare l'altro restando a fianco a lui, no. Però io credo che la pazzia o comunque la problematica mentale non debba distruggere il sentimento. Cioè può esistere comunque l'amore che io provo per te, che è mio, esiste anche se tu non sei con me presente. Certo. e io devo onorarlo quell'amore. Perché non senti bene? Comunque appartiene a noi quello che proviamo. Appartiene a noi. Non appartiene all'altro, è solo sull'altro, è tra virgolette una conseguenza. Esatto. O al massimo una causa, non so, uno stimolo. Questa puntata sta diventando un po' troppo alta. Scusatemi, no. E questo è un po' il significato di un spettacolo. Dobbiamo fare le menzioni. L'angolo della menzione. Ebbene sì, ahimè, dobbiamo menzionare quello che succede questa settimana, ovvero giovedì 19 marzo alle 18 nell'ambito del progetto Collezioni in Collezioni, un ciclo di appuntamenti ad ingresso libero dedicato all'incontro tra la dimensione pubblica del museo e il mondo delle collezioni private. Giovedì 19 marzo alle 18 nella biblioteca del Mambo Museo Morandi si tiene il quarto dialogo che vede coinvolti Lorenzo Balbi, direttore del museo, i collezionisti italiani Anna Grazia Stefani e Francesco Tampieri e le artiste Eugenia Vanni e Arianna Zama. Tutto questo alla Biblioteca del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna. Venerdì, sempre 20, alle ore 14, Pittura Oggi, una riflessione a più voci sullo stato dell'arte nelle accademie, a cura di Riccardo Caldura, Daniele Capra e Carmen Lorenzetti. Pittura Oggi è una giornata di studi sul tema dell'insegnamento della pittura nata in occasione della mostra More Than This, ospitata dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna fino al 6 aprile. Al termine del dibattito, alle 17.30, seguirà la presentazione del catalogo di More Than This, in cui interverranno gli autori dei contributi alla pubblicazione. Il simposio, curato da Riccardo Caldura, Daniele Capra e Carmen Lorenzetti, vede la presenza di Luca Bertolo, Luca Caccioni, Paolo Chiasera, Marco Cingolani e Massimo Kaufman. Va bene, va bene, no. Non ti preoccupare. Artisti e docenti nelle Accademie di Belle Arti di Bologna, Carrara e Milano, che si confronteranno sulle diverse modalità di condurre l'insegnamento della pittura. Tutto questo in Aula Magna, l'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via Belle Arti 54 a Bologna. Sempre venerdì 20, alle ore 17.30, la Biblioteca Mambo Museo Morandi ospita la presentazione del libro Questioning Exhibit Display, Theories, Form, Perspective. Hermann Editeurs des Sciences et des Arts del 2024, a cura di Francesca Castellani, Jérôme Glinsenstein, grazie, e Francesca Zanella. In conversazione con le curatrici, alcuni autori e autrici, docenti Dare e Lorenzo Balbi, direttore del Mambo. Il volume è il risultato di un progetto collettivo e interdisciplinare sui sistemi allestitivi come chiave essenziale del fenomeno espositivo. Tutto questo alla Biblioteca del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna. No, perché venerdì invece dobbiamo andare tutti a Rovigo anziché andare allo Mambo. Spazio Team, esatto. A sentire, ricordaci il nome della tua collega Sara. Ma siete avete un nome? Le Pare. Ah, certo, Le Pare. È vero, che è un nome fantastico. Che si può anche approfondire anche lì. Si potrebbe approfondire anche il significato. È un nome di bolognese, giustamente. Ma non lo so se è bolognese. In realtà, siamo due persone. Diciamo anche noi con problemi mentali diagnosticati, lo dico perché tanto voglio dire, stiamo qua, nel senso non c'ho problemi siamo a dire che amici, siamo due bipolari che si sono incontrate. E quindi questa roba è che ci alimentiamo le pare, però ce le anche annulliamo, le famose pare. Certo. Però siamo anche due, quindi pare. E poi appariamo, quindi pare carine e dolci, ma in realtà siamo delle cafone. Comunque, mi dovete promettere di venire a fare un concertino al 5C Lab, visto che, che è un posto, non so se ci sei mai stata. Ma organizziamoci, io ci sono, ho voglia. Okay. Assolutamente. Stasera ci organizziamo, per cui quanto prima sarete anche a Bologna. Dicevamo che sabato 21 alle 16.30 l'illustratrice e autrice Mia Supiai ci presenterà il suo libro How to Me Mama, una guida non guida illustrata della gravidanza al postparto, un'opera sincera di condivisione sull'evento della maternità con la prefazione di Doula. Resumo di sì. Incontro a cura di vicini distanti, tutto questo presso Tana in via Zogardino 12 a Bologna. E questo è un incontro a cui noi non possiamo, non possiamo mancare perché Mia Daschio Suppiei è stata co-conduttrice di Coxo Spaziale per un sacco di tempo e adesso, avendo due figli, ha scritto un libro chiamato How to be Mama. Voilà. Ta-tan. Sempre sabato, stavolta alle 17, per il ciclo Visto si stampi, dalle pagine alle sale, presentazione della nuova guida del Museo Archeologico, curata da Paola Giovetti e Marinella Marchesi ed edita da Franco Cosimo Panini, editore. A introdurre l'incontro sarà Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna. A presentare il volume è Tiziano Trocchi, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. A seguire, le curatrici delle diverse sezioni del museo saranno a disposizione del pubblico per una passeggiata nelle sale, tutto questo ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, al Museo Civico Archeologico in via dell'Archiginnasio 2 a Bologna. Poi ancora sabato, ma alle ore 17, all'Ariete inaugura Terre Dense, seconda personale in galleria di Simone Ponzi, corredata da catalogo monografico con testi di Pasquale Fameli e Chiara Cardini. In mostra l'ultima serie di opere a tecnica mista realizzate nel 2025, è dedicata al tema del paesaggio, costante oggetto della ricerca dell'artista. L'Ariete Arte Contemporanea in via Marsili 7 a Bologna. Sempre sabato, Pasquale Fameli, sempre a cura di Pasquale Fameli, che si dovrà sdoppiare, inaugura la collettiva Testa o Testa con gli artisti Vasco Bendini, Maurizio Bottarelli, Alberto Colliva, Pierro Cuniberti, Giuseppe Ferrari, Franco Filippi, Alcide Fontanesi, Piero Manai, Maurizio Osti, Concetto Pozzati, Lidia Puglioli e Bruno Pulga. Tutta questa super collettiva la troverete allo studio La Linea Verticale in via dell'Oro 4B a Bologna. E poi chiudiamo domenica 22 dalle 14 alle 17. Trame musicali in Certosa. I cimiteri sono da sempre considerati luoghi di silenzio e di raccoglimento, spazi di meditazione e di preghiera. Ma cosa succede se alcuni monumenti vengono associati a canzoni antiche e moderne? Un percorso autonomo per leggere in chiave contemporanea le opere d'arte presenti all'interno del cimitero monumentale della Certosa, patrimonio dell'umanità UNESCO, nell'ambito del progetto I Portici di Bologna. Sei invitato a portare con te cellulare e auricolari per ascoltare alcuni brani musicali suggeriti da una mediatrice o un mediatore. All'InfoPoint verrà consegnata una speciale scheda per seguire il percorso in autonomia e avere così anche l'occasione di creare nuove associazioni musicali per ideare la propria personale playlist della Certosa. È un'attività gratuita per adulti e famiglie senza prenotazione a cura di MIA, Musei Innovativi e Aperti per il Museo Civico del Risorgimento. Partenza dall'InfoPoint storico artistico in via della Certosa 18, cortile Chiesa, a Bologna. Voilà! In realtà ce ne siamo dimenticati uno, perché abbiamo entrambi aperto il file vecchio, perché sabato 21 marzo alle 17.30 abbiamo l'ultima possibilità per la visita guidata alla mostra Unlikely Monuments in Dialogue, Merini Carducci, personale di Sonia Lenzi, che indaga la possibilità di creare monumenti virtuali dedicati a donne che hanno svolto un ruolo pubblico, siano esse note, sconosciute o dimenticate. Monumenti improbabili, così come lo sono gli spazi in cui sono collocati. La curatrice Eleonor Grassi accompagna l'artista Sonia Lenzi alla visita guidata, che è prenotabile fino a venerdì alle ore 15, mandando un'email a casacarducci@comune.bologna.it. Tutto questo sarà naturalmente a Casa Carducci, in piazza Carducci 5 a Bologna. Oddio, ho sbagliato. Ok. Va bene così. Era così. E in realtà c'è rimasto pochissimo tempo per continuare a parlare con Paola Spagnuolo e con Flavio. Cosa ci racconti? Devi dirci qualcosa anche tu stasera. Va bene, che cosa devo raccontare? Niente, come vi siete conosciuti, per esempio? Noi ci siamo conosciuti a Nastri Teatro, questa realtà, che tra l'altro venerdì sera, vedi, con la sua rassegna Orli, presenta uno spettacolo molto interessante. Chi vuole informazioni può andare sul Nastri Instagram Teatro. Di Nastri Teatro. Grande. Troverà un logo a forma di banana. E se trova quel luogo a forma di banana vuol dire che il posto è quello giusto. Sì, ci siamo conosciuti là, poi c'ho sempre affinità elettive nell'amicizia e poi per assurdo proprio nel periodo in cui tutto questo stava succedendo, esatto. Quindi poi indirettamente diciamo ho vissuto sia quella situazione ovviamente a distanza, sia tutta diciamo la genesi dello spettacolo di Paola. Sì, lui voleva salvarmi in quel momento, ha chiamato un sacco di amici suoi in quella città, ti vengono a prendere, scappa. Vabbè, non c'è. Vabbè, ma io resto qui. Eventuali way out avevo organizzato nel frattempo. È importante. Sì, è importante avere un network di queste cose. Quello che succede è che ti viene detto: no, ma tu non hai nessuno intorno. No, ma che, anzi. Tu non hai nessuno intorno. E poi tu pensi, inizi, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma questo ti è stato detto? Questo, certo. No, questa cosa grazie a Dio non mi è stata detto. Anzi, io ero, mi sentivo molto protetta, sono stata io che sono dovuta rimanere lì, fino a che non proprio con l'ascia, con la falce della morte. Non si è... Hai detto che hai scritto questo spettacolo per sfogare e spegnere la tua... No, spegnere no. Io continuo ad avere grande amore per questa persona, ma è un amore molto... Come dire, come si può voler bene? Dico, questa passione con la quale racconti il tutto, questa grinta. Sono un po' fatta io così, un po' pittoresca. No, perché c'è chi dice: no, beh, però dovresti spegnere, cioè è finita la storia, quindi spegni e chiudi. Ma che? Ma quando mai? È lì? Ma perché? Se no, che viviamo a fare, signore? Se viviamo le cose e poi le spegniamo, devono continuare a vivere dentro di noi, se no. O almeno ci danno quella lezione ci cambia in qualche maniera. Certo, è tutto un fluire continuo. Ma non le puoi dimenticare, sennò fai sempre la stessa stronzata. Per non rifare la stessa stronzata, ricordiamocela come si deve. Yes. Che spettacolo! Guarda, è stato un vero piacere averti qui. Anche per me. E non vedo l'ora che tornerai a raccontarci. Se mi rivolete, io ritorno. Ti vogliamo tutte le settimane. Va bene. Magari con le pare. Con le pare. Magari con le pare. Certo. No, con le pare, assolutamente. Vi lascio. Vabbè, io ero Cinzia Corda, naturalmente. Io ero Stefano W. Pasquini. E come al solito, vi lascio con le parole del nostro direttore di radio, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Dermatologo. vado da